Trata burrata, la conca d'insalata, l'insalata bianca, tutto il mondo canta. Canta il mio gallo, risponde la gallina, madama colombina, la va la finestra, con tre coroni in testa, con tre coroni in mo, sotto la porta di Milà, sotto la porta di Tortona, che pistava l'erba buona le già si sta, che tre fiori da maridà, una la chiusa, l'altra la taglia, l'altra la fa il capel di paia, l'altra la fa il capel di fior, viva, viva, signor dottor, signor dottor, la fai la suppa, so che ti la mangia tutta.